e di servizi sociali per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, ed è quello che sostanzialmente abbiamo fatto noi. Voi. A me colpisce sempre questa cosa dei terreni abbandonati, no? mi fa tristezza l'idea di passare a fianco, vedere appunto selve che crescono, erbe che infestano tutto, è sempre un peccato, però noi sappiamo che lavorare la terra è un lavoro faticoso, per ogni azienda agricola che chiude non ce n'è un'altra che apre, proprio per queste difficoltà, a volte la questione dei prezzi sul mercato, non c'è un riconoscimento sufficientemente elevato del prezzo che si ricava dai prodotti. Voi in questo caso siete riusciti però a mettere a frutto alcune di queste terre abbandonate, pubbliche o private? Entrambe, nel senso che noi siamo partiti con terreni che avevamo noi di famiglia, privati, che appunto, come avete detto bene voi, insomma, con il passaggio degli anni 60 e 70, effettivamente con quando poi le aziende agricole difficilmente riuscivano ad essere concorrenziali sul mercato e si preferiva lavorare da altre parti, perciò il passare, il vedere appunto terreni incolti anche a me ha fatto dispiacere. Proponendo questo progetto, devo dire che la sensibilità delle persone ha fatto sì che iniziassimo con un pezzettino piccolo di terreno davanti casa, ma abbiamo una potenziale disponibilità di veramente di diversi ettari, proprio perché le persone hanno questi terreni che non vengono coltivati, difficilmente magari anche vengono affittati con un prezzo mediocre, e di conseguenza si preferisce dare ad un progetto di agricoltura sociale di questo tipo per far sì che ci sia un valore sociale all'interno della nostra città. E poi anche un modo per tenere il terreno in migliori condizioni, forse, no? Anziché appunto. Assolutamente. Quindi è uno di quei progetti nei quali alla fine vincono tutti, vince l'ente pubblico, vincono le persone svantaggiate, vincono anche le persone che hanno questi pezzi di terra che appunto altrimenti sarebbero incolti, abbandonati, e poi anche l'agricoltura, perché sì, cosa producete? Sì, sono cose buone queste qua. Sì, allora noi produciamo tutte, diciamo, prodotti ortofrutticoli di stagione, perciò rispettiamo la stagionalità, rispettiamo anche la diversificazione ambientale e coltiviamo tutti come coltivavano i nostri nonni, insomma, senza prodotti anticrittogamici o di sintesi, usiamo solamente l'etame e facciamo una produzione. Quindi potete fregiarvi anche voi dell'etichetta di biologico o qualcosa del genere, insomma. Sì, abbiamo la certificazione bio recente. Direi oltre il biologico, nel senso che se è solo l'etame e olio di gomito, direi che oltre il biologico. Io la ringrazio, Moreno Baggini, fondatore degli Ortofrutticoli di Voghera, una delle tante storie, però qua sono andati a fondo, bravi, complimenti. Grazie mille. In questo caso abbiamo scelto Shut Up and Drive di Rihanna, perché parliamo proprio di guidare la macchina, soprattutto non un'auto blu in questo caso, ma comune di Capannori, il sindaco e la sua giunta hanno deciso di utilizzare il BlaBlaCar per risparmiare. Bellissimo, non un'auto blu, l'auto che ti capita. Fantastico, fantastico. Luca Menesini, sindaco di Capannori, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, quasi un'idea, cioè potresti ricevere un premio all'originalità, perché insomma, tra i vari risparmi della spesa pubblica questa è un'idea veramente veramente originale. Ce la racconta? Sì, è un'idea originale, ma alla fine è anche abbastanza semplice, perché poi tutti siamo anche potenziali utenti di BlaBlaCar o comunque di sistemi di carpooling, e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato anche alla pubblica amministrazione, in questo caso alla sfera anche della politica, eccetera, abbiamo applicato questo principio. Quando andiamo per un weekend a Milano o Roma prendiamo in considerazione questa cosa quando andiamo per un viaggio di lavoro, perché non possiamo prendere in considerazione, visto certo. anche che da settembre appunto BlaBlaCar permette di avere poi una ricevuta e quindi è rimborsabile. Però insomma, la sua è una domanda retorica, sindaco, perché i suoi colleghi e i politici insomma, degli anni precedenti non avrebbero mai preso in considerazione una cosa del genere, per questioni di status, per questioni, per quali questioni, insomma, non lo so, ma, però è... credo che sia nel contesto dove la politica oggi deve cambiare, deve tornare ad essere molto vicina ai cittadini e quindi comportarsi come si comportano tutti i cittadini, ecco, io penso questo, quindi lo facciamo su questo come anche con questo spirito. Avete fatto una stima anche di, penso di sì, di quanto possibile risparmiare per le casse del comune di Capannori? Su un viaggio appunto da Capannori, che siamo in provincia di Lucca, a Roma piuttosto che a Milano, abbiamo un risparmio interessante che è di oltre il 50%. Perché alla fine un BlaBlaCar Lucca Milano costa 15 euro e in Eurostar costa ben di più, molto di più. Ma assolutamente. In realtà poi è anche una bella occasione per conoscere i propri concittadini, o in realtà non della propria città, magari di altre città. Aspetti estremamente interessanti, c'è quello economico che è affascinante, e soprattutto è affascinante quello relazionale, perché alla fine non si sceglie il persone con cui fare il viaggio, e quindi è interessante perché poi inevitabilmente. Pensa chi dal passaggio si trova in macchina il sindaco di Capannori. Ma io mi chiedevo se al contrario c'è qualcuno che ha bisogno di parlare con qualche amministratore e quindi si mette con la macchina sotto il comune e dice parola. Io vado un po' ovunque, se riesco a parlare. Anche finalmente con quell'assessore che deve sbloccare quei 2000 euro per quella cosina, ci faccio un bel viaggio in macchina. Soprattutto in 2 ore di viaggio, non è che l'ho convinto, ecco. Certo. Occhio che è un attimo, finire dal BlaBlaCar a un processo per corruzione, perché magari durante il viaggio in macchina si chiede un favore per la propria pratica. No, beh, questo sicuramente non succederà. Mi dispiace, è finito il tempo, però insomma la notizia. La notizia è stupenda, meritava un piccolo approfondimento. Poi tornerà a raccontarci il sindaco se funziona veramente questo sistema e quanto siete riusciti poi a risparmiare, che è quello che poi interessa al cittadino. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Italia, sì, Italia no, Italia gnamme, se famo lo spaghi, Italia so, Italia rot, la terra dei cacchi, una pizza in compagnia. Siamo sempre lì, l'Italia dei divieti, l'Italia delle truffe, la terra dei cacchi. Maria Letizia Gardoni, delegato nazionale Coldiretti Giovani Impresa. Buongiorno a tutti. Maria Letizia è una giovane ragazza che ha deciso di fare questo nella vita, cioè di fare l'agricoltura, di lavorare nei campi, una scelta controtendenza per un giovane d'oggi e che è anche delegato nazionale della Coldiretti. Maria Letizia, noi siamo già sentiti altre volte, ci avevi raccontato la tua storia, come hai iniziato tu comprando la terra, perché spesso si dice che è facile fare i contadini per chi ha eredita dalla famiglia, tu invece la terra te la sei comprata, se non ricordo. Sì, ho fatto un bel investimento, ho acceso un mutuo importante a 19 anni che finirò di pagare quando ne avrò 45, quindi non è impossibile. Ecco, vedi, questo per mettere subito le carte in 26 chiaro, perché... anni di mutuo. Ma esatto. Letizia ha tutti i titoli per parlare di questi argomenti. Allora, questo marchio Green Made in Italy, sì, è un'opportunità o è un handicap, magari perché essendo che si aderisce su base volontaria, non è un obbligo, ma rischia di trasformarsi magari per qualche azienda in un peso in più in un commercio, in un mercato che invece vede le truffe dietro l'angolo, sempre in agguato? Guardi, io credo proprio di no. Al contrario, credo che sia un marchio che possa aiutarci soprattutto nel comunicare, no? L'impronta ambientale dei nostri prodotti, i prodotti agroalimentari italiani, che sono da sempre riconosciuti come prodotti di altissima qualità e di grande sicurezza alimentare. Quindi può aiutarci, io credo, anche in maniera competitiva, no? In un sistema